strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ha sofferto e soffre di coronavirus anche il comparto dell'assistenza. Il barometro sul sentiment dell'assistenza auto elaborato dall'osservatorio Autopromotech nel marzo del 2020 ha tracciato un quadro a tinte fosche. Ben il 90% degli autoriparatori italiani ha dichiarato che l'attività si è mantenuta sui livelli bassi, solo il 10% ha segnalato un normale livello di attività. Ricordiamo che il comparto dell'assistenza auto era una delle categorie che poteva comunque lavorare in queste settimane. La crisi da Covid-19 e le iniziative di solidarietà delle case automobilistiche, come sappiamo, sono andate di pari passo. Anche Mazda ha deciso di mettersi al servizio delle persone più in difficoltà. Il brand ha infatti deciso di sostenere City Angels ODV, sezione di Roma, associazione di volontariato vicina alle persone più disagiate, e la protezione civile della comunità montana Sirentina al servizio dei piccoli comuni abruzzesi, mettendo a loro disposizione vetture Mazda per la distribuzione di medicinali e viveri. Sarà anche un momento difficile, ma gli italiani non hanno di certo smesso di sognare, nemmeno in fatto di auto. Dall'osservatorio di Subito Motori è infatti emerso quanto e cosa gli automobilisti nostrani hanno cercato sulla piattaforma. Crescono esponenzialmente le auto d'epoca e le youngtimer, sempre più apprezzate. Cercatissimi anche i brand di lusso, le auto del mito e infine le fuoristrada, forse anche semplicemente per la voglia di esperienze outdoor quanto mai forte in questo periodo. Chi ha pensato di comprare un'auto in tempi di coronavirus e chi ha intenzione di comprarla subito dopo il lockdown? È questa la domanda a cui ha cercato invece di rispondere lo studio di AutoScout24, che ha scoperto, forse a sorpresa, un clima di grande fiducia. Solo il 3% di chi aveva intenzione di acquistare un'auto di seconda mano prima dell'inizio dell'emergenza, infatti, afferma di aver cambiato idea e di non volerlo più fare, principalmente per motivi economici. La maggior parte degli italiani, l'82%, invece sta valutando di procedere già in questa fase, online o a distanza, o ha solo rimandato l'acquisto ai prossimi mesi. E adesso cambiamo decisamente argomento, in realtà lo cambiamo ma non troppo, perché purtroppo il tema centrale resta comunque quello dell'emergenza coronavirus, questa volta però con qualche buona notizia per la filiera dell'automotive, perché il governo sembra ormai intenzionato a dare priorità nella fase della riapertura a questa filiera così importante per l'industria e per l'economia italiana. Di questo e anche di altro parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Scudieri, presidente di Anfia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi di aver condiviso con me questo momento. Allora, dicevamo, un momento importante perché dopo tante riunioni, tanti incontri e tanta attività anche da parte delle associazioni del settore, finalmente sembra che siamo in una fase in cui una ripartenza con una priorità al settore dell'automotive è vicina. Sì, speriamo che si possano concretizzare al più presto queste necessità di rimettere in moto una macchina, quella dell'automotive, del settore automotive, che è largamente complessa e pesantemente integrata in una filiera che attraversa i confini nazionali e giunge pesantemente in Europa con il 60% dell'export dei nostri prodotti, e quindi evidentemente ha delle responsabilità sulla realizzazione di autovetture, di produzione di autovetture in Europa e mondo. Ricordo l'importanza dell'attività automotive nell'economia nazionale, con oltre 5.700 imprese, 270.000 addetti e un gettito fiscale molto importante, che nell'anno scorso è stato di 76 miliardi di euro, e quindi è evidente che con tutte quelle che possono essere le salvaguardie rispetto di piani di sicurezza, bisogna assolutamente avere il coraggio, ponderando il rischio e mettendo in salvaguardia il sistema industriale attinente all'automotive, e quindi interpretare quel momento di rappresentazione di prodotti tecnologicamente avanzati, di prodotti che rappresentano il Made in Italy, e di un ritorno alla normalità non solo auspicato ma necessario per una società che civile che non vuole applicare a questo momento di nefasta realtà. E la filiera dell'automotive non si fa cogliere impreparata a questo importante appuntamento. A livello europeo, proprio qualche giorno fa, c'è stata la realizzazione di un vero e proprio codice comune di condotta aziendale realizzato da CLEPA e ACEA. A livello nazionale ci sono gli accordi sindacali che ad esempio FCA ha fatto con i sindacati per la ripartenza. Insomma, un mondo che aspettava, certo non in maniera statica, questo momento. Assolutamente, abbiamo, devo dire, collaborato in modo molto veemente con le istituzioni, perché questo è il momento di essere particolarmente sinergici, particolarmente uniti, particolarmente con l'obiettivo che pubblico e privato in questo momento, istituzioni, devono assolutamente collaborare in un momento di tale difficoltà. La salvaguardia ormai è fattore arcinoto, la salvaguardia è fattore importante, il quocervo di capitale immateriale che sono gli uomini è fattore fondamentale per lo sviluppo delle imprese. Per questo le imprese hanno particolarmente a cuore tutto ciò che attiene alla sicurezza operativa piuttosto che sanitaria. L'atteggiamento deve essere di grande responsabilità, a partire da come arrivano i dipendenti in azienda, al loro screening quotidiano, alla registrazione dei dati, alla dotazione dei dispositivi di protezione individuali, all'allontanamento massimo, io non mi fermo al dire deve esserci il metro e mezzo di distanza eccetera, io devo dire che se, così come in alcuni settori possono esserci 5 metri piuttosto che 10 metri, eccetera, questi devono essere interpretati sempre con una salvaguardia ulteriore, quindi un allontanamento degli operatori l'uno dall'altro. Presidente, cambiamo argomento anche per, come dire, cominciare a dare un'occhiata a quello che ci attende nel futuro. È arrivato a compimento un percorso seguito con attenzione da Anfia già da diversi mesi, da diversi anni, con l'approvazione da parte della Regione Campania del progetto Borgo 4.0, che è un progetto davvero particolare, perché si tratta di trasformare un borgo della Regione Campania in un vero e proprio centro di sperimentazione per tutto ciò che sarà la mobilità del futuro, e in questo momento abbiamo bisogno di pensare alla mobilità del futuro. Che cosa prevede questo progetto e quali saranno i prossimi step? E grazie per questa domanda a cui tengo particolarmente. Dopo l'idea e poi la fase di pianificazione, di realizzazione di questa proposta alla Regione Campania, siamo arrivati evidentemente a una fase straordinariamente importante, epocale. Io definirei l'alba di un nuovo momento in cui i sistemi di trasporto per una mobilità evoluta e sostenibile possono trovare una materializzazione in un'area geografica importante. Importante perché Borgo 4.0 è anche il nuovo umanesimo, cioè l'approccio delle tecnologie che rispettano l'uomo e che non invadono assolutamente la vita privata, usufruendo della disponibilità, della comodità di usare le tecnologie, ma poi venendone completamente rapito e aggredito. E in questo contesto, un'area interna della regione Campania, l'Irpinia, dotata di grandissimi spazi e di altimetrie, capaci di testare con in modo molto severo, avendo un clima molto rigido d'inverno e estremamente caldo d'estate, potendo testare quindi tecnologie su un banco di prova che è quello reale. E qui si va a connotare l'azione della Regione Campania, che ha licenziato, quindi approvato definitivamente questo progetto, e quindi si avvia la fase negoziale dei singoli progetti, avendo un supporto che con grande tangibilità rappresenta 10 grandi imprese, 44 piccole e medie imprese, 2 centri di ricerca pubblici in rappresentanza delle 5 università campane più il CNR. Beh, insomma, un progetto che coinvolge davvero tanti, tantissimi operatori pubblici e privati. Pubblici e privati che andranno ad operare in queste aree che erano evidentemente state abbandonate da un'evoluzione industriale che prevedeva l'allontanamento di chi voleva trovare evidentemente uno scopo lavorativo e che lì non aveva possibilità di farlo. E quindi riportare menti acute e progetti innovativi in quell'area vuol dire riprendere tradizioni, riprendere innovazione e portarla a compimento di una realtà che si evolverà, portando con sé nell'evoluzione anche quegli antichi mestieri che rappresentano i territori, la storicità dei territori. E noi seguiremo con grande attenzione l'evoluzione di questo progetto che coinvolge il borgo irpino di Lioni, appunto in provincia di Avellino. C'è un grande interesse ovviamente di tutti gli operatori nei confronti di questo vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui saranno testate poi tutte le tecnologie del futuro. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il presidente di ANFIA, Paolo Scudieri. L'appuntamento con Strade e Motori torna tra poco con la seconda parte. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. E allora, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, continuiamo a parlare dell'impatto dell'emergenza coronavirus sulla filiera dell'automotive. Oggi nostro ospite il direttore generale di Hyundai Italia, Andrea Crespi. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, anche Hyundai si sta muovendo, si è mossa molto in queste ultime settimane per fronteggiare questa crisi e ha messo a punto un vero e proprio pacchetto di assistenza per i propri clienti. Di che cosa si tratta? Ma si tratta del fatto che ci abbiamo tenuto fin dal primo momento di essere a distanza ma molto vicini e comunque essere un punto di riferimento per tutti quanti i clienti, quindi tutto ciò che riguardava il mondo dell'auto in particolare Hyundai è stato curato nel dettaglio attraverso degli strumenti molto precisi. Abbiamo per esempio prolungato a più di 1 milione di clienti nel mondo la garanzia, abbiamo attivato tutti dei servizi ovviamente che tenevano conto del fatto che l'attività si interrompesse per un certo periodo, quindi per esempio i clienti non potevano fare i tagliandi e hanno visto prorogata la loro assistenza, il servizio di assistenza stradale. Quindi abbiamo tenuto a dare con dei provvedimenti molto precisi e molto sostanziali una vicinanza a tutti quanti i nostri clienti. Ecco, accanto a questo ci sono poi delle iniziative specifiche che sono state lanciate nelle ultime settimane, iniziative di solidarietà come ad esempio il supporto alla Croce Rossa Italiana. Di cosa si tratta? Diciamo, in questa fase Hyundai ha voluto partecipare insomma all'ondata di solidarietà in questa situazione estremamente difficile. Volevamo fare quanto più possibile per aiutare tutte le organizzazioni sanitarie, abbiamo quindi fatto un po' il nostro mestiere cercando di dare a tutti la mobilità. In particolare alla Croce Rossa sono stati consegnati dei veicoli che loro terranno proprio per la mobilità di tutti i loro organici e credo che questa sia un piccolo segnale da parte di Hyundai per poter sostenere e fare anche qui dare un sostegno fattivo in questo momento di estremamente difficile per tutti. Qualche giorno fa abbiamo ascoltato dalla viva voce del presidente di Unrae qual era la situazione per quanto riguarda la filiera dell'automotive, ovviamente la sua declinazione italiana, anche per quanto riguarda le case estere come la vostra. Poco fa, pochi minuti fa, abbiamo ascoltato il presidente di Anfia Scudieri, con cui abbiamo parlato in particolare delle ipotesi di ripresa. Ormai è abbastanza chiaro che siamo nell'imminenza di una ripresa delle attività. La filiera dell'automotive ha avuto in questo senso un occhio di riguardo. Come vi state preparando voi a questa ripresa delle attività? Con tre pilastri fondamentali che secondo noi sono le direttrici chiave per tutto quanto il mondo Hyundai. Innanzitutto garantire una sicurezza a tutti quelli che arriveranno nei nostri saloni, nelle nostre assistenze, in tutti quanti i nostri concessionari sul territorio nazionale. Quindi indifferentemente da dove la concessionaria è collocata, noi avremo la possibilità di mostrare anche al cliente, quello è proprio un lavoro che stiamo facendo in queste ore, di avere un protocollo precisissimo di sicurezza su tutte le normative che devono essere rispettate, che ovviamente sono quelle raccomandate dalle autorità sanitarie. Il secondo punto è accessibilità, cioè vorremmo dare un aiuto, un supporto fattivo a tutti quanti i nostri clienti per poter guidare Hyundai e per poter cambiare macchina, quindi abbiamo studiato questa formula che è già attiva sulla Tucson, la nostra best seller, dove il cliente sostanzialmente può guidare immediatamente attraverso un anticipo zero, a tasso zero, quindi senza interessi, e pagando il costo economico, quindi la prima rata dal gennaio del 2021, quindi fino all'anno prossimo, in maniera tale da adeguare in questo periodo la disponibilità economica. E poi l'altra cosa, il terzo pilastro è quello della protezione. In questo momento credo che ci voglia una protezione aggiuntiva per tutti quanti i clienti. Stiamo offrendo dei prodotti assicurativi che proteggono ulteriormente il cliente in caso di perdita del lavoro rispetto ovviamente al pagamento del finanziamento, oppure anche in casi di impedimento, quali possono essere per esempio un caso di malattia. Ecco, queste sono le tre direttrici sulle quali noi ci stiamo concentrando, coinvolgendo ovviamente tutta la rete a livello nazionale, e sulla quale pensiamo di poter partire per l'offerta dei nostri prodotti, che ovviamente Hyundai ha confermato essere in totale rinnovamento. Quindi abbiamo confermato il nostro piano di rinnovamento della gamma 2020. Proprio a proposito di questo, ovviamente anche Hyundai, così come tante altre case, aveva fatto dei piani fin da prima di Ginevra, per capirci, di lancio di nuovi modelli, nuovi aggiornamenti. Come sono cambiati questi piani, oppure è tutto confermato così come inizialmente previsto? Siamo molto orgogliosi di poter dire che sono confermati, quindi dopo il lancio della nuova i10, che è la nostra proposta per la City Car, abbiamo confermato il lancio della i20 nel segmento B e della nostra famiglia i30, che è invece quella delle medie. Però nella parte finale dell'anno avremo altre sorprese con il rinnovo praticamente di tutta la gamma dei Tucson, e credo che lì faremo un lavoro di grande presa sul mercato per poter arrivare a una nuova fetta di mercato, interessare sempre più clienti nel mondo Hyundai. A proposito di nuovi modelli, il dibattito subito prima dell'emergenza era particolarmente concentrato sull'evoluzione delle motorizzazioni, in particolare sull'elettrificazione di questi modelli, anche a causa o in virtù, a seconda dei punti di vista, di alcuni provvedimenti normativi europei. Secondo lei questo processo di elettrificazione a tappe forzate ha ancora un senso, o sarà necessario invece aspettare e attendere una ripresa del mercato? Allora, secondo me non dobbiamo vedere su tappe forzate o tappe non forzate. L'aspetto chiave è che la direzione della mobilità elettrica, come una delle forme sostanziali di possibilità di muoversi, quindi di della mobilità sostenibile, è un imprescindibile filone che si svolgerà nei prossimi mesi e non lo possiamo cambiare. Tra l'altro, in questo filone Hyundai vuole essere proprio un protagonista, perché ha già annunciato 44 modelli entro il 2025 e vuole comunque essere nella top 3 dei costruttori in questo tipo di veicoli. Quindi al di là del fatto che la mobilità elettrica possa avere un'accelerazione o un rallentamento in base alla situazione attuale, io direi che il filone, il trend di poter sviluppare la mobilità sostenibile nella sua forma emissioni zero, quindi elettrica, credo che sia un qualche cosa sul quale dovremmo continuare a lavorare in maniera molto forte, perché credo che sia irreversibile questo trend. Un lavoro che ovviamente noi continueremo a seguire con grande attenzione, perché termina qui questa puntata di Strade Motori. Noi salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. L'appuntamento con Strade Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.